tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Grazie alla Napoli e al Milan della scorsa settimana sta forse cominciando a cambiare la geografia del calcio continentale. Dunque l'Inghilterra, grande potenza delle ultime stagioni, aveva perso i due Manchester, cioè le due squadre più qualificate nella fase a gironi. Le altre due, beh, insomma, le ha praticamente perse già in questi ottavi. Diciamo che non ci sono dubbi per quanto riguarda l'Arsenal, che non può rimontare uno 0-4 contro il Milan, ma non ci sono poi tantissimi dubbi, io credo nemmeno per il Napoli, dopo la rimonta già fatta ieri sera dopo il gol a freddo di Mata, ed è un Napoli che, eliminando il Chelsea, sarà o sarebbe, facciamo ancora per scaramanzia, al suo secondo scalpo britannico di prestigio, perché non dimentichiamo che il Manchester City, che sta in testa al campionato inglese, l'ha eliminato il Napoli. Quindi se davvero ci riuscirà, e a questo punto è ragionevole cominciare a non solo a sperarlo ma a pensarci, insomma, far fuori il City in autunno e poi il Chelsea all'inizio della fase primaverile sono davvero due grandi imprese. Dopodiché, in una serata in cui davvero le prudenze non sono mancate, a me pare, e credo che sarà d'accordo chi l'ha potuta ammirare in TV, credo che la prudenza assoluta l'abbia firmata però un giocatore del Bologna, che si chiama Gaston Ramirez, perché il 2-0 segnato di tacco alla Fiorentina nel recupero del tardo pomeriggio di ieri in campionato è un gioiello assoluto che non a caso ha già fatto il giro del mondo. Un magnifico Napoli, magnifico per come ha saputo reagire ad un gol che, come sappiamo, conta doppio, pesa doppio e ti spezza le gambe, la convinzione, il doppio, no? Quando lo subisci così a freddo e oltretutto su un errore come quello di Cannavaro. Ma la reazione collettiva della squadra, firmata poi dai due grandi protagonisti della serata, è stata davvero da grande squadra che può cominciare a... magari senza esagerare, ma cominciare a sognare, insomma, non solo il quarto di finale a questo punto, anche se poi molto dipenderà evidentemente dal sorteggio. Dei due protagonisti comincerei da Cavani. È stata una partita straordinaria da parte di tutti, preparata pure, io credo, alla perfezione, perché abbiamo avuto, diciamo, dei giorni di preparazione che abbiamo fatto le cose come si dovevano fare. Nel momento di entrare nello spogliatoio, alla fine ti rendi conto di che hai vinto una partita molto difficile contro una delle potenze mondiali, quindi quello è un motivo di orgoglio che ci fa, diciamo, credere ancora di più e ci fa lavorare un pochettino più sereno per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Preparata alla perfezione, ha detto molto bene Cavani, tant'è vero che il Napoli aveva già creato due grandi occasioni gol e su una, proprio quella di Cavani, era stata formidabile la parata di piede di Cech, e però appunto riuscire, la partita era stata preparata talmente bene che nonostante la disavventura poi il Napoli, facendo un po' di fatica e soffrendo un po', è riuscito comunque a ritrovarsi e a riprenderla in mano. Dove stava Mazzarri in tutto questo? Dunque, in panchina no, perché era squalificato, in panchina c'era Frustalupi, di lui si è detto che stesse addirittura a Castelvolturno, cioè a un sacco di chilometri da Napoli, oppure che fosse in un albergo in città, oppure che si fosse nascosto allo stadio. Sentiamo che dice. Sono passati 25 minuti dalla fine della partita, controllate gli orologi, tempo necessario di arrivare dall'albergo. Ma la squadra mi è piaciuta da tutti i punti di vista, cioè, abbiamo subito il contraccolpo per 10 minuti, un quarto d'ora, quando abbiamo preso questo gol balordo per quel rimbalzo sciagurato, e ci ha messo un po' in difficoltà, abbiamo perso convinzione, mentre eravamo entrati in campo benissimo, alla grande. Questa squadra mi stupisce sempre, che al di là del contraccolpo per 10 minuti, un quarto d'ora, poi abbiamo reagito alla grande, abbiamo creato tante palle gol importanti, peccato che l'occasione di maggio non ci abbia dato il 4-1. È vero, perché... credo che adesso non sia il caso di cominciare a temere che quel mancato 4-1 in quella circostanza in particolare, ma anche in altre, possa poi un giorno essere motivo, un giorno, tra tre settimane essere motivo di rimpianto, non lo credo, ma non c'è dubbio che ad un certo punto il Napoli potesse davvero disintegrarlo, questo Chelsea, che pure ha avuto delle fasi di buona superiorità a metà del primo tempo, subito dopo l'1-0 e anche per una certa parte del secondo, ma sterile. Il Chelsea avanzava a plotoni affiancati, il Napoli ogni volta che pungeva davvero in contropiede e che qualcuno in più accompagnava l'azione era sempre pericoloso. In realtà Mazzarri non era in nessun albergo, Mazzarri era nel dirigibile del San Paolo, sulla tettoia, insomma, arrampicato e appollaiato lassù per controllare, almeno questa è la versione. E la versione finale di questo piccolissimo giallo comunque divertente. Un protagonista assoluto è stato certamente Cavani, tutti sono stati protagonisti, personalmente ho tratto una partita straordinaria del piccolo uruguaiano in mezzo al campo, ma certo che Lavezzi stavolta e ultimamente di più indubbiamente alla grande quantità di giocate ha cominciato ad accoppiare anche la qualità sottoporta e non c'è dubbio che questo cambi un tantino le cose. Lavezzi. Credo che loro sono una squadra forte, ancora non è finita, però la realtà è che abbiamo fatto un bel vantaggio. Sicuramente dobbiamo andare là a fare la nostra partita e cercare di fare qualche gol che magari ci può dare la qualificazione. Credo che oggi tutti quanti si dovevano mettere a disposizione la squadra, che era la cosa più importante. Penso che l'abbiamo fatto e che la squadra ha fatto un bel lavoro, no? Un primo ascoltatore ha chiesto di intervenire da Parma, si chiama Domenico, buongiorno. Buongiorno, grazie. È un piacere intervenire nella sua trasmissione. C'è un ritorno, ma cercherò di essere breve. Io sono tifoso del Napoli e volevo manifestare pubblicamente, insomma, la soddisfazione per essere tornati a certi livelli dopo tanti anni di delusioni, fallimenti e tutto quello che c'è stato intorno. E poi volevo chiederle così un'opinione sul fatto che per la prima volta io ho visto Mazzarri intervistato in televisione dopo essere stato fuori dal campo, no? Quindi sul dirigibile, lei ha detto, adesso non so dove fosse, però mi è parso diverso dal solito, calmo e addirittura con la voglia di scherzare e di rispondere alle battute, mentre invece di solito è evidentemente il campo che dà una tensione. Certo. Che noi a volte insomma non capiamo e spesso critichiamo, no? Potrebbe essere degli allenatori. Potrebbe essere una buona formula, Domenico. Mazzarri che prepara le partite, perché quella di ieri sera è preparata alla perfezione, non è certamente la prima, non sarà l'ultima. Ben preparata col Napoli e poi visto che fa un po' di fatica a reggere alle pressioni e alle tensioni, Mazzarri sul dirigibile, no? con un certo distacco a sorvegliare dall'alto e a controllare tutto quello che accade. Scrive Paolo da Maserada sul Piave, mi chiede di ringraziare la redazione di Destini Incrociati perché ieri scrive Paolo, mi ha fatto piangere con il racconto su Gigi Meroni. Presenterò evidentemente questi complimenti, dopodiché Paolo, raccontare la triste storia di Gigi Meroni, insomma, e far commuovere chi l'ascolta non è una grande impresa, che poi lo abbiano fatto bene, questo è tutto un altro paio di maniche e la ringrazio di questi complimenti già evidentemente inoltrati in diretta. Io sottolineerei, scrive Francesco da Brescia, la potenza, la velocità e la tecnica di Maggio, per me nel suo ruolo è uno dei migliori e se ne parla poco. Che ne pensa lei? Penso che gioca in nazionale, quindi che insomma, magari se ne parla meno di altri, perché poi sono sempre i grandi cannonieri quelli che rubano la scena, però insomma, che Maggio sia un signor giocatore non può essere una novità. C'è qualche partita in cui fa fatica a... io semmai mi sorprendo di quando non riesce ad esprimerla tutta questa potenza, no? C'è qualche partita in cui è più difficile, non so, incanalarla, ma che sia un grande giocatore, ripeto, non c'è discussione. Dopodiché non perdetevi quel... quel taconasso di Gaston Ramirez, perché il vero gioiello della, in assoluto, la prodezza individuale della giornata e serata di ieri non viene da Napoli, non viene dal Real Madrid, viene da questo giocatore del Bologna che ha segnato un 2-0 alla Fiorentina di tacco veramente strepitoso. Dunque, cambiamo capitolo fino a un certo punto, perché come promesso fin da ieri c'è qui Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, riassumo brevemente, reduce dal convegno organizzato ieri a Roma dalla Lega Pro, ci hai dato ieri alcune anticipazioni di argomenti che adesso svilupperemo, reduce anche da Sky, dove ormai impazza frequentemente. Noi da qui da distanza lo controlliamo, ma avendo creato un mostro è ovvio che poi si fa fatica, no? I mostri a gestirli più avanti, reduce anche da un Napoli-Chelsea che così a occhio mi sembra non ti abbia messo di cattivo umore. Così. Beh, devo dire che insomma è stata una soddisfazione. Se mi avessero raccontato appunto un anno fa del Napoli in Champions, agli ottavi, vincente nella partita d'andata sul Chelsea, insomma 3-1 dopo aver preso gol in casa, no, a freddo. È stata una bella reazione quella, e devo dire io ero abbastanza sconfortato su quella, perché mi sembrava un segno del destino anche questo rimpallo strano. Lì Cannavaro ci faceva un po' male, un centrale non deve farlo passare comunque il pallone. Però il Napoli ha reagito, era in un bel momento, perché ecco, è dalla partita con il Chievo di lunedì scorso che il Napoli ha un po' ripreso le redini della sua stagione. E tra l'altro è stato anche detto che la preparazione era stata puntata sulla Champions. Non c'è alcun dubbio, mi sembra che siano i fatti a dirlo, perché è un crescendo. E quindi il collegamento tra, come dire, gambe, cuore e cervello ieri ha funzionato alla perfezione. Stamattina mi sono svegliato con l'immagine però del pallone calciato da Maggio e fermato sulla linea, e come dire, speriamo di dimenticarlo che diventi un dettaglio, che diventi una ciliegina in più potenziale che poteva essere, perché effettivamente poi a gioco lungo il Napoli meritava di più. Parliamo del convegno, parliamo di delle tematiche emerse ieri a Roma, partendo dalla Lega Pro, ma mi sembra che poi si sia andati ben oltre. Beh, sono tematiche importanti, perché ora stiamo parlando del calcio di vertice, quello che appassiona la massa dei tifosi, ma c'è un calcio minore in drammatica sofferenza che sta cercando una via per risollevarsi. Qualche dato serve a far capire l'entità della crisi. Ormai mediamente le squadre di Lega Pro di prima e seconda divisione incassano, diciamo, hanno un fatturato di 1,9-2 milioni e ne perdono stabilmente 3. Che sembrano cifre minime, no? Se confrontate con i bilanci dei grandi club, ma a quei livelli dove le squadre si reggono su 100-200 mila euro, ti fa capire appunto lo squilibrio ormai cronico che si è determinato. Da qui la proposta della Lega Pro, che aveva di fronte a sé due strade: quella di aspettare che la crisi economica e finanziaria facesse la propria strada fino in fondo, la propria funzione selettiva, e quindi tagliando naturalmente le squadre incapaci di sostenere un intero campionato, e in parte è avvenuto, perché nell'ultimo anno si è passati da 90 a 77 squadre. Sì, che già è un non è ancora l'obiettivo finale, spugnazione che servirebbe, ma insomma è un piccolo passaggio. Invece si è scelto coraggiosamente, io dico, da parte di Mario Macali e di Francesco Ghirelli, che è il direttore generale della Lega Pro, la strada di una riforma dall'alto, concordata con la FIGC e con il CONI, ma anche con il governo, per gli aspetti che vedremo tra un attimo, per guidare questa selezione di squadre che possono davvero permettersi di giocare in Lega Pro. L'obiettivo finale è quello di avere 60 squadre con tre gironi che si concentrino territorialmente, e dopodiché insomma si passa al calcio dilettantistico, che è un'altra cosa. Territorialmente parliamo di mi auguro in orizzontale, perché insomma io ogni volta che sento parlare giustamente, sento citare questo nuovo slogan del chilometro zero applicato alla al cibo, alla gastronomia, e poi vedo invece che i campionati sono tagliati verticalmente, quindi le squadre valdostane devono giocare in Sicilia. Esattamente, è stata una scelta inappropriata. Invece l'idea è quella di far sì che gli scontri siano tra squadre, come dire, limitrofe, ritorni la serie C, la vecchia serie C, quella dei Gonfaloni, dei Campanili, con partite ravvicinate che abbiano anche un minimo di interesse per le popolazioni locali, e tieni conto che mediamente si staccano 200-300 biglietti nelle partite di Lega Pro. Sì, di questo stiamo parlando. Di questo stiamo parlando. Tra l'altro c'è anche l'idea di trovare un orario più consono. Oggi la Lega Pro gioca la domenica pomeriggio, e per questo, diciamo, per questa scelta riceve dei contributi dalla Lega di Serie A, nel senso che giocando in un orario in cui normalmente gli altri tifosi guardano magari le partite di Serie A, riceve un compenso, e si regge su quello, cioè sui contributi relativi ai diritti televisivi che la Serie A concede. L'idea invece è quella di trovare invece un momento diverso. Si parla per esempio del sabato pomeriggio alle 18, magari la domenica mattina, chiesa permettendo, in modo tale da attirare le famiglie, e ripeto, in un'ottica di riavvicinare queste squadre alle comunità locali e farne davvero, diciamo, un volano per i giovani e anche per attività di tipo sociale. Insomma, questo è l'obiettivo. È inutile che un piccolo campionato di Lega Pro scimmiotti nelle modalità i grandi campionati nazionali e internazionali. Tanto vale individuare un altro spazio e altre. Deve essere qualche altra cosa. Certo. Da qualche anno, per esempio, le squadre che impiegano giovani ricevono un contributo, ci sono 16 milioni all'anno che la FIGC dà alle squadre in base al minutaggio in cui impiegano i giovani. Questo dovrebbe essere rafforzato, questo parametro, e queste risorse dovrebbero essere aumentate in maniera tale da veramente ricreare un circolo virtuoso per cui magari i club di Serie A comincino a ripescare nella Serie C o nella Serie A, nella Serie B, senza inventarsi a volte acquisti abbastanza esotici e sportivamente poco redditizi. Senti, a proposito di acquisti esotici e poco redditizi, e magari molto discutibili anche per altre modalità, leggevo sul Corriere dello Sport di stamane altri guai della Procura Federale per trasferimenti irregolari. Sono stati deferiti Lotito, Zamparini e evidentemente la Lazio e il Palermo per responsabilità oggettiva. Che vicenda è questa, così in quattro parole? Beh, credo che si tratti delle solite vicende per cui si cercano di agevolare i trasferimenti di calciatori passaportati legandoli, come dire, a territori tipo europeo. D'oltremare, mi viene in mente. Ma direi tipo europeo e comunitario, per permetterne come dire, un utilizzo senza restrizioni. Questi giocatori oggettivamente di buona qualità costano meno che quelli italiani di una qualità analoga, e dunque per le squadre diventa nel breve termine più profittevole cercare questi giocatori piuttosto che scommettere sui giocatori italiani, allevarli e spesso rischiare magari che non diventino dei campioni. L'idea, ripeto, di riformare i campionati dalla base, dalla Lega Pro, e poi si passerà ovviamente alla Serie B e alla Serie A, in particolare riducendone il numero di squadre, questo è l'obiettivo finale che Abete ieri non ha nascosto, permetterà effettivamente di ripuntare sui giovani, ma non a chiacchiere. Ricordiamo anche che investire in vivai è importante anche nell'ottica del fair play finanziario, perché la spesa nei vivai è una di quelle che possono essere diciamo stornate dal bilancio, e quindi sono accettate dalla UEFA. Dunque da qui a poco diventerà anche conveniente dal punto di vista economico, certo, sì, investire nei vivai. Investire nei vivai e provare a crescerseli in casa questi ragazzi, no? Anziché affidarsi a, leggo, numeri di, cioè, quantità di mediatori, no? e di alla base anche di questi deferimenti proprio. Ma basta guardare, Gigi, il campionato primavera italiano, che è un campionato internazionale ormai, cioè le squadre primavera sono piene zeppe di giocatori stranieri, per carità, insomma. Non c'è nulla di male, stranieri andati a prenderla, però non stranieri cresciuti, cioè non stranieri, italiani cresciuti in casa da genitori stranieri, evidentemente certo, presi da altre federazioni, insomma, nei limiti in cui i regolamenti lo consentono, ma sicuramente si è approfittato di questa certo. possibilità. Dopo l'intervallo ripartiamo proprio da queste riforme dei campionati, cioè da, da, non, non più dai 90 diventati 77 e destinati a diventare 60 dei club di Lega Pro, ma invece dal calcio di vertice, come ci hai anticipato. Parleremo anche di orari. Io sarei comodo il venerdì alle 18.30, scrive Marco, e aggiunge un forza grigi, perché evidentemente è un tifoso dell'Alessandria che ha festeggiato il centenario in questi anni. E qualcuno comincia a scrivere messaggi sul format, sui format ideali. Oh, torniamo in compagnia di Marco Bellinazzo, da ieri o moderatore. Intanto a questo convegno c'era Petrucci, c'era, c'era Bete, c'era un sacco di dirigenti. C'era... No, non c'era Andrea Agnelli, però, che è intervenuto a distanza ieri in una polemica con Abete. Sì, la, la polemica è stata fatta fuori dal convegno, anche perché io. Non essendo presente, non l'avrei, è facile moderare. Non l'avrei permessa, come dire, questo intervento. La polemica in questi termini. Ieri c'erano tutti i presidenti della Lega di Serie A, appunto di Lega Pro, di Lega B, c'erano anche vecchi. Personaggi che hanno dato tanto, poi la, la storia scriverà le critiche o meno a questi personaggi insomma, importanti comunque del calcio italiano, che hanno occupato una fetta della storia del calcio italiano, come Carraro, come Matarrese, insomma è stato un momento di riflessione a cui ciascuno ha portato il suo contributo. E sono venuto poi anche fuori proposte interessanti, di una parleremo domani sul Sole, che sembra un po'... forte per quanto riguarda il, l'ambito in cui la si vuole utilizzare, cioè la proposta di utilizzare per i giovani di Serie C il contratto di apprendistato. Sai che ora è al centro del dibattito politico, perché il governo vuole fare proprio di questo tipo di contratto il contratto principale per inserire i giovani nel mondo del lavoro. E una delle proposte più importanti che viene dalla Lega Pro è quella di creare un contratto di apprendistato ad hoc per i giovani calciatori, per inserirli appunto nelle, nella Serie C, nella Lega Pro, un contratto particolare ovviamente con delle agevolazioni contributive e agevolative che dovrebbe permettere a questi giovani, e sono circa 4.000 giovani di serie, quindi non parliamo di, non pochi. Di pochi numeri, non solo di poter voglio dire, giocare, avere uno stipendio, ma anche magari di frequentare dei corsi, riuscire a conquistare un diploma, perché poi ovviamente non tutti diventeranno campioni, non tutti potranno mantenersi a vita certo. con il calcio. Dunque ci hai accennato prima, ci hai anticipato prima di questo accenno che Abete, presidente federale, ha fatto a una ormai ineludibile, perlomeno in prospettiva, riforma o tentativo di riforma dei campionati verso le 18 squadre, verso il ritorno alle 18 squadre. Lì, come Gigi sai, c'è il limite dei diritti TV che sono stati già venduti per i prossimi due anni e quindi non si potrà fare nulla nell'immediato. Però è parso a tutti evidente che il numero delle squadre professionistiche italiane è eccessivo. Nel 2010 ce n'erano 132 di squadre professionistiche, in Inghilterra ce ne sono 92, in Germania 62 e in Spagna e in Francia una quarantina. Quindi c'è uno squilibrio evidente e soprattutto in relazione. In Grecia non ce ne sono più, non scherzo. Sono forse quanto quelle italiane, non so, bisognerebbe investigare. Se ne avevi idea. La sproporzione è in relazione al tessuto economico. Un paese come l'Italia non può permettersi tutte queste squadre. Questo vale per la serie minore, ma varrà anche per le serie maggiori. E quindi l'idea, bloccando poi i ripescaggi, bisognerà studiare in che modo, è quella comunque di scendere rispetto all'attuale livello e dunque arrivare alle 18 squadre in Serie A e magari passare, per quanto riguarda la Serie B, da 22 a 20 o da 22 a 18, in maniera tale da riuscire ad avere calendari un po' più snelli e squadre più competitive dal punto di vista economico. Sembra un obiettivo a cui tendere. Ovviamente l'800240024 è sempre praticabile. Se qualcuno ha piacere di intervenire su questi temi piuttosto che su altri, si è parlato anche di business a più alto livello, io credo, in questo convegno. Beh, se ne è parlato, si è parlato in particolare poi della difficoltà che ha il calcio italiano di reggere a livello come dire, di fatturati la concorrenza con le big europee. Io ho scritto un pezzo la settimana scorsa appunto in cui mi sono un po' divertito a recuperare quelli che erano i fatturati realizzati dalle big europee negli ultimi 10 anni e viene fuori un dato, per la verità, non nuovissimo, se ne è parlato spesso, ma vederlo lì, come dire, tratteggiato dai numeri è abbastanza impressionante, sì. Perché intorno al 2004-2005 le big italiane fatturavano sui 200 milioni, ovviamente poi ogni anno in base anche ai risultati sportivi, sì, questo livello varia, ma è giusto per farsi un'idea, e 200 milioni era anche il livello di fatturato a cui giungevano le altre big europee, parlo delle principali squadre spagnole, inglesi e tedesche. Nel 2011 siamo arrivati invece a una situazione in cui le big europee fatturano quasi il doppio di quelle italiane, in particolare Real Madrid e Barcellona, che sono la prima e la seconda, fatturano 479 e 451 milioni, il Manchester United fattura oltre 360 milioni, il Bayern Monaco siamo sui 320, le squadre di vertice italiane sono al settimo e all'ottavo posto di questa classifica, mi riferisco a Milan e Inter, continuano a fatturare più o meno intorno ai 200 milioni. Dunque, quantomeno nella migliore delle ipotesi, il calcio italiano ha disimparato a crescere e sono tante le ragioni, insomma oggi non c'è tempo di investigarle tutte, però è chiaro che a partire da una riforma dei campionati, ma anche da una revisione dei modelli di business, c'è bisogno di fare qualcosa per non perdere ulteriormente terreno, fermo restando che questo divario per il momento sembra incolmabile. Franco, chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini. Io ho visto il Bologna chiaramente ieri sera, concordo con lei sulla magia di Ramirez, però la mia domanda riguarda il gol di Cavani, perché ho visto i passaggi che ha fatto Sky. Io non ho capito con che parte del corpo l'ha messa dentro, perché ho visto una mezza protesta di un difensore inglese. Ma no, proteste non mi è sembrato. Io quando ho visto entrare quel gol, ho visto due o tre replay, ho immaginato se quel gol l'avesse preso Mazzarri. No, probabilmente avremmo sentito qualche commento. Non ho sentito un accento solo da parte del Chelsea, giustamente perché non c'è mano, non c'è braccio che si stacca dal corpo, c'è probabilmente un pezzo di spalla, ma anche perché nel momento dell'impatto lui prende il colpo da dietro di Ivanovic, che in realtà lo spinge al punto che da un'angolazione particolare sembrava persino un'autorete quasi, ma niente di regolare, molto di discutibile sulla difesa del Chelsea, sia sul secondo che sul terzo gol. Anche perché Gigi, se avesse preso la palla con la mano e l'arbitro se ne fosse accorto, non solo avrebbe annullato il gol, avrebbe anche ammonito Cavani, certo, che già ammonito sarebbe stato espulso. Sarebbe cambiato il corso. Sì, sì. Poi lui ha spiegato, ha detto mi hanno spinto un po' e l'ho presa di spalla, ma in effetti quella spinta, che poi non era nulla irregolare, è un tentativo di andare sul pallone, si vede, un'azione regolarissima, in cui però appunto va giustamente notato che gli inglesi sono maestri nell'accettare, no, l'azione regolare, che però magari si presterebbe al piccolo dubbio, quando noi invece siamo maestri nell'azzeccare garbugli. Pier Giorgio, di nuovo da Bologna, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo ringraziarla personalmente per aver citato Gaston Ramirez. Questo ragazzo è un po' che qui si è fatto notare a Bologna. È parente? No. Dai, però insomma nemmeno manager. Mi ha fatto piacere che lei l'abbia citato, perché il Bologna non viene quasi mai chiamato in causa, purtroppo, anche per colpa nostra. E volevo solo segnalarle che qualche lungimirante dirigente rossoblu quest'estate aveva già praticamente concluso lo scambio con Felipe della Fiorentina, che per nostra fortuna non ha accettato. E tutto qua, la ringrazio e l'ascolto per radio, arrivederci. Grazie a lei Pier Giorgio. Poi ci sono tante mail arrivate come sempre in serata, quando ci sono queste grandi partite, in serata, in mattinata, arrivano durante. Questa è carina. Salvi Greco scrive: sto festeggiando ancora la vittoria del Napoli, ho visto il programma successivo Rai su Champions e mi sembra ci sia stata un'altra domanda di quelle indimenticabili, già ieri era successo di citarne un'altra, questa volta a Mazzarri, il conduttore ha domandato: Mazzarri, domani l'Inter gioca contro il Marsiglia, domenica voi giocate contro l'Inter, se la sente di fare un in bocca al lupo a Ranieri? E giustamente questo ascoltatore va vagamente inorridito, mi chiede cosa ne penso. Penso che c'era nei primissimi anni 90 quel leggendario giornale satirico che si chiamava Cuore, fondato e per un bel po' diretto da Michele Serra, che tra le sue rubriche aveva, ne aveva una, mi è tornata in mente leggendo sta mail, che diceva fotografate le insegne più idiote, no? E gli, e i lettori mandavano le foto delle insegne di negozi più idiote. Credo che si potrebbe, potremmo inaugurare noi qua forse, no? Una rassegna, ce ne segnalate voi e ci fate, e ve ne saremo grati, ci segnalate voi le domande più idiote che è possibile fare. Perlomeno nel mondo del giornalismo sportivo. Daniele Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo fare una domanda in merito al fair play finanziario. Sì. Diciamo che negli ultimi anni, no, i vari Berlusconi, Moratti, la famiglia Sensi a Roma hanno sempre pagato di tasca propria i passivi di bilancio accumulati dalle squadre. Ma se da qui a 3-4 anni, quando andrà a regime, se andrà a regime questo benedetto fair play finanziario, no? A questo punto non servirà più avere un grandissimo presidente alle spalle che può ripianare i debiti, che tanto non gli permetteranno di andare fuori budget, e per cui secondo me questi personaggi non avranno più motivo di esistere, tra virgolette, perché non potranno più pagare di tasca propria gli eventuali passivi. Allora, Daniele da Milano, la domanda è chiara, ma era esattamente questo, è esattamente questo l'obiettivo comunque del fair play finanziario, cioè fare sì che le società siano finanziariamente autonome e quindi possano spendere quello che incassano e nulla più, quindi senza più mecenati che staccano assegni miliardari. E è nato il fair play finanziario contro Abramovic, poi è arrivato lo Sheikh Mansour, poi ne è arrivato un altro a Parigi. Questi signori, poi questi oligarchi, ecco, dovranno in qualche modo attenersi alle regole, insomma. Certo. Senti, c'è almeno ancora un ascoltatore da Napoli che vuole intervenire su argomenti di questo genere. Poi, dato che avremo un altro paio di argomenti di cui occuparci, vi dirò, cari amici in ascolto, come potete rivolgere direttamente le vostre domande a Marco. Luca, chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Dica. Mi ricollego brevemente al discorso fair play finanziario per una critica, in senso buono, ma è sempre una critica. Ieri, nella partita di Champions Napoli-Chelsea, un settore che a Napoli è considerato un po' più alto del popolare, ossia di Steam, un biglietto per la partita costava 150 euro. Innanzitutto mi domando se con queste partite di Champions in Italia non si riesca a capire la crisi finanziaria ed economica del nostro paese, se c'è o meno, perché uno stadio gremito con un settore che si avvicina a quelli popolari a 150 euro significa che mediamente il biglietto è costato 200, perché c'era anche tribuna VIP a 250. Quindi già di per sé la cosa lascia un attimino sorpresi. Anche più di un attimino, Luca. Che ne dice Marco Berinazzi? Che il Napoli ieri ha incassato 3 milioni e nel big match di sabato con lo stadio, il nuovo stadio della Juve pieno, si incasserà 1 milione. Gli stati non risolvono tutti i problemi di stati di proprietà, quelli vecchi come il San Paolo, diciamo, permettono grandi incassi, sicuramente sono cifre molto elevate e sono scelte della società, e d'altro canto, insomma, finanziare una squadra che va in Champions per una realtà come il Napoli, che non ha alle spalle, diciamo, una storia importante e risorse enormi come hanno altre squadre, significa anche magari fare un bel incasso al botteghino. Chiaramente chi ha la possibilità ci va, chi non ha questa possibilità se la guarda a casa, c'è Sky, Mediaset, insomma. Vecchia storia, anzi antica. Calcio e Business si chiama il blog, vero? Sì, è il blog sul Sole 24 Ore. Sul sito del Sole di Marco Bellinazzo. Per cui, visto che mi pare di capire che di curiosità di questo genere ne abbiate, io li destinerei, no, per una piccola coda. Poi, certo, speriamo che non ti alluvionino di domande. Sì, io cercherò di rispondere quel che è possibile. So che il popolo del web è molto esigente, io sono stato molto cauto, infatti non ho creato un blog finora, proprio perché certo, è importante destinare il tempo giusto, insomma. Sì. E non ne avevo finora, ora ho deciso, insomma, di aprire questo spazio. E poiché parecchio di questo spazio poi arriverà attraverso questo canale radiofonico, potrebbe essere poi carino prendere gli argomenti e gli interventi più di interesse generale o comunque di carattere più curioso e poi ritrasportarli. L'intenzione è questa. È l'intenzione. Grazie allora a Marco Bellinazzo per oggi. Noi, giusto per cambiare accento, andiamo da Nicola Filippone per sentire che cosa ha scovato per il 22 febbraio. Sembra ieri. 22 febbraio 1931. A San Siro la nazionale esordisce nella seconda edizione della Coppa Internazionale con un successo prestigioso. Gli azzurri superano l'Austria per 2-1, rimontando lo svantaggio subito a freddo siglato da Horvat. I gol dell'Italia, due gesti tecnici notevoli, portano le firme di Giuseppe Meazza e Mumo Orsi. La supremazia azzurra viene ulteriormente legittimata da un'altra rete annullata a Costantino e da un rigore sbagliato da Orsi. Quella del 1931 è la prima vittoria italiana contro l'Austria, una delle scuole più autorevoli del calcio delle origini. E arriviamo alla vigilia di stasera, perché Marsiglia-Inter, è inutile negare, non ha il fascino che aveva ieri Napoli-Chelsea, sto parlando di vigilia, né per le condizioni veramente rischiose, no, dell'Inter di questi giorni, ma nemmeno per il fascino recente, se non altro, del Marsiglia rispetto al Chelsea. Ma è pur sempre una partita di Coppa Campioni e vale pur sempre un quarto di finale. Non solo sulla carta era quella che vedeva la squadra italiana più favorita, non solo per il valore non assoluto del Marsiglia, ripeto, di questi tempi, ma anche perché era l'unica squadra all'Inter a giocare la partita d'andata fuori casa, quindi ad avere in vantaggio, non poi così indifferente, del ritorno e degli eventuali supplementari rigori sul proprio campo. Ma è un po' cambiato tutto. E allora andiamo a sentire alcune di queste voci di vigilia, cominciando per esempio da quella di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Didier Deschamps. L'esperienza è una bella cosa quando ce l'hai con te. Sicuramente nei momenti difficili aiuta tanto. Dovremmo appoggiarsi su altre cose, anche se l'esperienza una piccola ce l'abbiamo, però l'Inter ce n'ha molto di più, quindi è per questo che non è che voglio passare la pressione all'Inter e a Claudio Ranieri, però credo che sia giusto che l'Inter, nonostante il momento negativo che sta attraversando nel campionato, nelle ultime partite, rimane comunque la favorita per questo doppio confronto. Sì, sulla con un po' di buona volontà, con un minimo di, no, di queste, prego, sembra di sentire un po' la vigilia di Milan-Juve, no? Prego, s'accomodi, no, guardi, è favorito lei, ma ci mancherebbe altro, ma come, ma le pare che potrei arrogarmi questo ruolo. Forlan ritorna in Champions, poi che giochi davvero o che non giochi, questa sarà probabilmente una scelta dell'ultimo minuto, ma a differenza della cosiddetta fase autunnale perlomeno è certamente disponibile. Forlan. Io sempre entro in campo e voglio fare bene, no? È un momento difficile quello che noi stiamo in questo momento, ma la voglia è sempre di fare lo meglio possibile e di fare questo che ho fatto tanti anni fa, no? Ma devo ritrovare il momento, no? La condizione dopo tanto tempo fuori, ma sono, ti ripeto, con la voglia di cominciare a fare bene. Beh, certo che di guai fisici non ne ha passati pochi Forlan, e questo, unito all'ambientamento e unito a una stagione pessima collettiva, ha prodotto questa specie di scomparsa, no? Dai radar di un giocatore che ancora l'estate scorsa era protagonista assoluto, grazie per esempio in Coppa America, senza dimenticare che fior di mondiale si era giocato un anno e mezzo fa sempre con l'Uruguay. Franco, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Senta, volevo fare una semplice considerazione in merito, cioè guardando la partita di ieri su Cavani. Volevo chiedere se anche voi siete d'accordo, se anche lei, signor Garanzini, è d'accordo. Nel dire che innanzitutto mi sembra proprio un ragazzo molto serio. Seconda cosa, si conferma ogni partita un grande campione, perché nelle grandi partite lui c'è sempre, a differenza magari di altri campioni forse più osannati anche di lui. Sì. E terza cosa, proprio vedendo la partita di ieri, per il modo che si sacrifica per la squadra e come invece è molto lucido davanti alla porta, lo paragonerei forse a Eto'o, seppure ovviamente ha un aspetto ben diverso dal giocatore quando era nell'Inter, però mi sembra di dire che è proprio forse il nuovo Eto'o. Sì, mi pare che lei lo sostenga per la sua capacità di essere protagonista nelle occasioni difficili, e cioè che mi sembra il dato saliente di anche il sacrificio per la squadra, perché lui poi è un giocatore davvero intelligente, forse più intelligente di Eto'o, forse era più istintivo. L'impressione di Cavani quando trova quella linea, quando recupera qualche pallone, è perché intuisce prima la linea di passaggio degli avversari e si fa trovare lì, rubando il tempo. Quindi questo come capacità di sacrificio e come valore tattico. Dopodiché il saper essere protagonista nell'occasione che conta, è la virtù dei campioni davvero grandi. Su questo lei ha ragione. Sentirete la musichetta sullo sfondo, significa che è tempo di salutare Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti che ha curato la regia, dandovi appuntamento a domani.